forte, come con un elastico giù da un ponte. Sfondo più forte, con questo suono che ti arriva tutto in fronte. Grida più forte, vivi la vita senza temere la morte. Sfondo più forte, mentre gioco a carte con la sorte. Fisso davanti agli occhi il mio obiettivo, lo afferro con le mani, lo stringo e lo comprimo finché esplode col massimo potere distruttivo. Sembra riduttivo, mi volete più cattivo? Ti accontento, non mi lamento, mi dai un appuntamento, tanto non mi presento. Tu impaziente guardi in strada l'orologio attento, intanto a casa tua mi faccio il tuo appartamento. Lei ti piace, tu non ne sei capace, io più audace, con lei a letto, ora faccio una strage. C'è chi parla, teme la mia rabbia, predica, professa, pretende che non sappia. Per chi sbaglia da mezzo errore ancora, non sono sociofobico, solo che odio le persone. Essere o non essere, raccolgo lettere, compongo storie di gioia e di malessere. Grida più forte, come con un elastico giù da un ponte. Sfondo più forte, con questo suono che ti arriva tutto in fronte. Grida più forte, vivi la vita senza temere la morte. Sfondo più forte, mentre gioco a carte con la sorte. Seconda strofa, voglio sentire il coro. Ogni rima la paghi con pepite d'oro. Castano non moro, Camelline non Malboro. Di rosso vestita e mi accendi come un toro. Loco, questo non è poco, bimba non è un gioco. Noi qui andiamo a fuoco. Avvisata, non mezza salvata, ma tutta spogliata, ti voglio depravata. La giostra che gira, non si respira e lei mi raggira. E so che ti ispiro a farmi le fila, mettiti in fila. La giostra che gira, non si respira e lei mi raggira. E so che ti ispiro a farmi le fila, ma mettiti in fila. Grida più forte, come con un elastico giù da un ponte. Sfondo più forte, con questo suono che ti arriva tutto in fronte. Grida più forte, vivi la vita senza temere la morte. Sfondo più forte, mentre gioco a carte con la sorte. Solo con lei faccio un capolavoro, con il Cubase registro un capolavoro, sul lavoro stampo un capolavoro, non rispondo alle mail, scusa capolavoro. Ciò che dico piace, la mia faccia un po' meno, ma io brucio il terreno. C'è chi stima ed apprezza il mio lavoro, ed è per loro questo capolavoro.